Capitolo 12. Una promessa solenne e un giuramento. Solo il venerdì successivo Marilla venne a sapere del cappello fiorito di Anna. Era andata a trovare la signora Linde e quando tornò a casa chiamò immediatamente la bambina per farsi dare spiegazioni. Anna, Rachel mi ha raccontato che domenica scorsa ti sei presentata in chiesa con il cappello pieno di rose e ranuncoli e che eri piuttosto ridicola. Che stupidaggine! Ma come ti è venuto in mente di dare spettacolo a quel modo? Oh, sì, lo so che il giallo e il rosa non sono i colori più adatti a me, ammise Anna. Ma quali colori adatti? Non è una questione di colore, cara mia, sono i fiori sul cappello che erano ridicoli. Sei proprio una bambina disubbidiente. Ma scusa, perché mettere i fiori sul cappello sarebbe più ridicolo che appuntarli sul vestito? Reagì Anna. Molte delle mie compagne avevano un mazzolino di fiori sul petto, che differenza c'è? Marilla non aveva neanche lontanamente intenzione di staccarsi dalla realtà dei fatti per inoltrarsi nelle incertezze tortuose di ciò che è astratto. Non rispondermi così, Anna. Ti sei comportata da sciocca. Non provare mai più a fare una cosa simile. Rachel mi ha detto che si è vergognata per te quando ti ha vista entrare così conciata. Non è riuscita a venire a dirti di toglierti quella pagliacciata dalla testa, ma ha sentito che la gente ne ha parlato moltissimo. Certo, adesso penseranno tutti che non sono nemmeno capace di impedirti di fare certe stupidaggini. Oh, scusa, mi dispiace tanto, sussurrò Anna con gli occhi pieni di lacrime. Non immaginavo che avrebbe potuto darti fastidio. Quei fiori erano così belli che ho pensato solo a quanto sarebbero stati carini sul cappellino. Sai, tante bambine sul cappello avevano dei fiori finti. Mi sa che sarà davvero una gran seccatura educarmi. Forse ti converrebbe rimandarmi all'orfanotrofio, anche se per me sarebbe una tragedia tremenda e non credo proprio che riuscirei a sopportarlo. Con tutta probabilità morirei di consunzione. D'altronde sono già così magra, smunta. Però sarebbe comunque meglio così che dover diventare un fastidio per te e Matthew, ecco. Stupidaggini! Ribatté secca Marilla, arrabbiata con se stessa per aver fatto piangere la bambina. Non mi sogno neanche di rimandarti indietro, figurarsi. Solo mi piacerebbe che ti comportassi come le altre bambine, senza renderti ridicola. Dai, finiscila di piangere. Ho una bella cosa da dirti. Diana Barry è tornata a casa questo pomeriggio. Io devo già andare da sua madre e farmi prestare il cartamodello di una gonna, quindi se ti va, puoi venire con me. Avrai l'occasione di conoscere Diana. Anna saltò in piedi come una molla e giunse le mani al petto. Aveva le guance ancora rigate di lacrime e lo strofinaccio a cui stava facendo l'orlo a giorno finì sul pavimento, già dimenticato. Oh, Marilla, adesso sono agitatissima. Finalmente è arrivato il momento che aspettavo, io quasi quasi ho paura. Che cosa succede se non le sono simpatica? Potrebbe essere la peggior delusione della mia vita. Senti, adesso non farla tanto lunga, per favore. Dovresti proprio finirla di usare sempre tutte queste parole complicate. È una cosa strana in una bambina della tua età. A Diana sarai sicuramente simpatica, ma dovrai vedertela con la sua mamma, perché se non piaci a lei, quello che dice Diana non avrà nessun peso. E se la signora Barry per caso ha già saputo della tua maleducazione con la signora Linde e dei fiori in testa con cui ti sei presentata in chiesa, beh, non so cosa potrebbe pensare di te, ecco. Devi essere ben educata, comportarti bene e non lanciarti a fare i tuoi soliti discorsi strampalati. Oh, per l'amor del cielo! Ma quanto sta tremando questa bambina! Anna tremava come una foglia ed era tesa, pallidissima. Guarda che saresti agitata anche tu, Marilla, se fra pochi minuti dovessi incontrare la bambina che potrebbe diventare la tua migliore amica con il rischio di non piacere a sua madre. Osservò precipitandosi a prendere il cappello. Marilla e Anna andarono a Orchard Slope prendendo la scorciatoia che oltrepassava il ruscello e costeggiava il boschetto di abeti. Marilla bussò e la signora Barry aprì la porta. Era una donna alta, con occhi e capelli molto scuri e una bocca dall'espressione determinata. In paese dicevano tutti che con i figli era sempre estremamente severa. Oh, buongiorno Marilla, come sta? Chiese cordialmente appena le vide. Prego, accomodatevi. E questa è la bambina che lei e Matthew avete adottato, giusto? Sì, lei è Anna Shirley, confermò Marilla. Con la A finale, si affrettò a precisare Anna, che nonostante l'agitazione era decisa a non rischiare nessun fraintendimento su una questione per lei fondamentale. La signora Barry forse non aveva sentito, forse non aveva capito le parole della bambina e le porse la mano, chiedendole con gentilezza: «Ciao, come stai?» «Buongiorno, signora. Grazie, sto bene nel corpo, anche se sono considerevolmente inquieta nell'anima», fu la solenne risposta di Anna, che subito dopo sussurrò a Marilla. «Non era una risposta troppo stravagante, vero?» Diana era seduta sul divano e stava leggendo un libro, ma lo posò quando le nuove arrivate fecero il loro ingresso. Era davvero una bella bambina, che aveva ereditato gli occhi e i capelli neri dalla madre, le guance rose e un'espressione allegra e cordiale, invece, dal padre. «Questa è Diana», la presentò la madre. «Diana, perché non porti Anna in giardino e le fai vedere le tue piantine? Meglio che rovinarsi gli occhi su quel libro. Sa, legge davvero troppo», aggiunse la padrona di casa rivolgendosi a Marilla mentre le bambine uscivano. «Ma proprio non riesco a impedirglielo, perché suo padre la incoraggia a continuare e così lei ha sempre un libro in mano. Mi fa piacere che possa avere un'amica, così magari passerà più tempo all'aperto». In giardino, dove la calda luce del tramonto filtrava tra i rami degli abeti altissimi, Anna e Diana si osservavano con curiosità e timidezza insieme, al di sopra di un ciuffo di bellissimi gigli tigrati. Il giardino della famiglia Barry era grande, ombreggiato, pieno di piante, che avrebbe mandato Anna in brodo di giuggiole se fosse stata meno agitata. Era circondato da antichi salci piangenti, enormi, ed altrettanto antichi abeti, sotto i quali spuntavano tanti fiori che amavano l'ombra. Il giardino era percorso da sentieri ordinati dalle svolte ad angolo retto, tutti bordati di conchiglie come nastri rossi inumiditi dalla rugiada. E nelle aiuole, ricavate tra l'uno e l'altro, crescevano miriadi di piante affascinanti, di centre e rosa, dette anche cuori di Maria per la tipica forma a cuore, magnifiche peonie color cremisi e poi narcisi bianchi, profumati e delicate rose dai gambi coperti di spine e ancora aquilegie rosa, bianche, azzurre, saponarie e lilla, ciuffi di abrotano, menta e nastri di saggina spagnola. C'erano anche piccole orchidee viola, giunchiglie e un tappeto di trifoglio con i ciuffetti delicati e fragranti delle piccole infiorescenze rosa. E infine le alte spighe scarlatte del delphinium che spiccavano sulla distesa di fiorellini bianchi del muschio. Quello era un luogo in cui i raggi del sole si soffermavano, le api ronzavano e la brezza, attirata dalla possibilità di gironzolare un po', frusciava, sempre gradita. «Senti, Diana», mormorò Anna contorcendosi le mani, «dici che potrei piacerti almeno un pochino? Abbastanza da diventare la tua amica del cuore?» Diana rise, come faceva quasi ogni volta prima di parlare. «Beh, sì, credo di sì», rispose franca e sincera. «Sai, sono proprio contenta che tu sia venuta ad abitare a Green Gables. Sarà bello avere una compagna di giochi, ci divertiremo insieme. Da queste parti non c'è nessun'altra bambina della mia età e le mie sorelle sono troppo piccole». «E mi giurerai di restare mia amica per tutta la vita?» le chiese Anna, impaziente di conoscere la risposta a quella domanda fondamentale. Diana la guardò impressionata. «Non si giura mai? Non si fa», rispose in tono di rimprovero. «Ma no, non parlo di quel tipo di giuramento, ce ne sono di due tipi, sai?» «Io ho sempre saputo che di giuramento ce n'è un tipo solo», replicò Diana poco convinta. «No, esiste anche un altro tipo di giuramento e non è una brutta cosa, basta solo fare una promessa solenne». «Allora lo posso fare», ammise Diana più tranquilla. «Come si fa?» «Basta che ci prendiamo per mano, così», spiegò Anna tutta seria, «e bisognerebbe fare tutto sopra un corso d'acqua corrente. Visto che non ne abbiamo una a disposizione, immaginiamo che questo sentiero sia un ruscello. Comincio io. Giuro solennemente di essere fedele alla mia amica del cuore Diana Barry finché il sole e la luna splenderanno nel cielo. Adesso tu devi ripetere la stessa cosa mettendoci il mio nome». Diana ripeté il giuramento aggiungendo una risata prima e dopo. Poi disse: Sei una ragazza strana, Anna. L'avevo sentito dire che eri strana, ma ho l'impressione che mi piacerai proprio tanto. Quando Marilla e Anna si avviarono per tornare a casa, Diana le accompagnò fino al ponticello di tronchi. Le due bambine camminavano ognuna tenendo il braccio intorno alle spalle dell'altra. Arrivate al ruscello, si salutarono con la promessa di trascorrere insieme il pomeriggio del giorno dopo. Allora? Hai trovato in Diana la tua anima gemella? Si informò Marilla mentre lei e Anna attraversavano il giardino di Green Gables. Oh, sì, sospirò Anna, beatamente ignara della punta di sarcasmo nel tono della donna. Oh, Marilla, in questo momento sono la bambina più felice di tutta Prince Edward. Ti prometto che stasera dirò tutte le preghiere con la massima buona volontà. Sai, domani io e Diana vogliamo costruire una casetta nel boschetto del signor William Bell. Posso prendere i piatti di porcellana rotti che ci sono nella legnaia? Pensa, Diana compie gli anni a febbraio e io a marzo. Non ti sembra una stranissima coincidenza? Diana ha detto che mi presta un libro da leggere. Dice che è stupendo e tremendamente emozionante. E poi vuole mostrarmi un posto in fondo al boschetto dove crescono le fritillarie selvatiche. Non pensi che Diana abbia due occhi davvero espressivi? Quanto vorrei averli anch'io come i suoi. Diana vuole insegnarmi una canzone che si intitola Nelly della Valle dei Noccioli. Ha detto anche che mi regala un quadro da appendere in camera. È un dipinto meraviglioso con una signora molto bella che indossa un vestito di seta azzurra. Gliel'ha dato il venditore di macchine da cucire. Mi piacerebbe poterle regalare qualcosa per contraccambiare. Sono quasi 3 centimetri più alta di lei, ma Diana è molto più in carne di me. Dice che vorrebbe essere magra come me, perché secondo lei così sarebbe più carina, però mi sa che l'ha detto soltanto per essere gentile. Un giorno o l'altro vogliamo andare sulla spiaggia a raccogliere conchiglie. Abbiamo deciso che chiameremo la sorgente giù vicino al ponte di legno la bolla della Driade. Non è un nome assolutamente elegante. Una volta ho letto una storia in cui c'era proprio una fonte che si chiamava così. Una Driade deve essere una specie di fata cresciuta, credo. Santa pazienza! Spero che non tramortirai la povera Diana a furia di parlare, osservò Marilla. Comunque, ricordati, Anna, in tutto questo programmare frenetico, che non starai fuori a giocare per tutto il tempo e nemmeno per la maggior parte, avrai sempre i tuoi lavori da svolgere e quelli hanno la precedenza su ogni altra cosa. Ma, Anna, era il colmo della felicità e Matthew fece traboccare il bicchiere già pieno. Era appena tornato da una spedizione al negozio di Carmody. Sfilò timidamente di tasca un pacchettino e lo porse alla bambina. Il gesto fu subito seguito dallo sguardo di disapprovazione della sorella. Una volta hai detto che ti piacciono i cioccolatini e te ne ho comprati un po', spiegò consegnandoglieli. Bravo, sbuffò Marilla irritata, giusto per rovinarle i denti e farle perdere l'appetito. Ma, aggiunse subito, su su, bambina, non fare quel muso lungo, li puoi mangiare, visto che Matthew te li ha comprati. Certo avrebbe fatto meglio a prenderti delle mentine, che non fanno male. Mi raccomando, vedi di non farti venire mal di pancia mangiandoli tutte insieme, capito? Certo che no, fu pronta a rispondere Anna. Stasera ne mangio uno solo e degli altri potrei darne metà a Diana, vero? Quelli rimasti mi sembreranno 2 volte più dolci se li avrò divisi con lei. È stupendo sapere che ho anche io qualcosa da regalarle adesso. Devo ammettere che quella bambina, disse Marilla quando Anna fu salita in camera sua, è davvero generosa, meno male, perché fra tutti i difetti che si possono avere, l'avarizia in un bambino proprio non la sopporto. Santa pazienza, è qui solo da 3 settimane e io ho la sensazione che sia con noi da una vita. Non riesco nemmeno a immaginare questa casa senza di lei. E adesso non guardarmi con quella faccia, Matthew, da uno che pensa, te l'avevo detto. Perché è già fastidioso vederla in una donna, ma in un uomo è insopportabile. Sono assolutamente disposta a riconoscere che sono felice di aver accettato di tenere la bambina e che mi sto affezionando a lei, ma tu non rinfacciarlo, Matthew Cuthbert. Capitolo 13. Il piacere dell'attesa. È ora che Anna rientri a fare il suo lavoro di cucito, disse Marilla, guardando prima l'orologio e poi fuori dalla finestra, in quello splendente pomeriggio di agosto in cui tutto sembrava appisolato nella calura. Si è fermata a giocare con Diana mezz'ora in più di quanto le avevo dato il permesso e adesso se ne sta là seduta su una catasta di legna e non la finisce più di parlare con Matthew quando sa perfettamente che dovrebbe essere qui da un pezzo. E lui sta lì a pendere dalle sue labbra come uno sciocco. Non si è mai visto un uomo tanto incantato da una bambina. Più lei chiacchiera e gli racconta le sue storie sconclusionate, più lui se la spassa. Anna Shirley, vieni subito qui, hai sentito? Una serie di colpetti intermittenti sul vetro della finestra esposta a ovest fece correre Anna attraverso il cortile, con gli occhi luminosi e le guance appena arrossate, i capelli sfuggiti alle trecce che la seguivano come un mantello in fiamme. «Oh, Marilla!» esclamò senza fiato. «Ci sarà un picnic organizzato dalla scuola domenicale la settimana prossima e sui prati del signor Harmon Andrews, proprio in riva al lago delle acque scintillanti. La sovrintendente, la signora Belle e la signora Rachel Lind ci prepareranno il gelato. Ci pensi, Marilla? Il gelato! Posso andarci anch'io, vero Marilla? Guarda l'orologio, per piacere, Anna. A che ora ti avevo detto di tornare a casa? Alle 2. Però non è una splendida notizia questa del picnic, Marilla. Ti prego, posso andarci? Oh, non sono mai stata a un picnic. L'ho sempre sognato, ma non ho mai... Appunto. Ti avevo detto di tornare alle 2, invece sono le 3 meno un quarto. Mi piacerebbe sapere perché non mi hai ubbidito, Anna. Beh, io avevo intenzione di farlo, Marilla, sul serio, ma è così piacevole stare nel boschetto dell'ozio. E poi dovevo raccontare a Matthew del picnic, no? Lui è un ascoltatore così interessato. Ti prego, posso andarci? Ti toccherà imparare a resistere al fascino di quel boschetto, come si chiama. Quando ti dico di tornare a casa a una certa ora, intendo a quella e non mezz'ora più tardi. E non c'è nemmeno bisogno di fermarti lungo la via a chiacchierare con il tuo interessatissimo ascoltatore. Quanto al picnic, certo che puoi andarci. Sei un'alunna della scuola domenicale di catechismo e non c'è motivo che io non ti permetta di parteciparvi dal momento che ci saranno tutte le altre bambine. Ma, farfugliò Anna. Diana mi ha detto che dobbiamo portare tutto un cestino con qualcosa da mangiare. Io non so cucinare, lo sai, Marilla, e non mi importa molto di andare al picnic senza le maniche a sbuffo, ma mi sentirei terribilmente umiliata se mi dovessi presentare senza il cestino. Questo pensiero mi tormenta da quando Diana me l'ha detto. Oh, non è proprio il caso di tormentarsi. Preparerò io la merenda da mettere nel cestino. Oh, cara, buona Marilla, oh, sei sempre così gentile con me, oh, grazie, grazie, grazie. Dopo tutte quelle esclamazioni, Anna si gettò fra le braccia di Marilla e la baciò con entusiasmo sulle guance pallide. Per la prima volta nella sua vita, due labbra infantili toccavano spontaneamente il viso della donna, la quale fu inondata da una sensazione di infinita dolcezza. Dentro di sé, Marilla fu molto contenta di quel gesto affettuoso della bambina e forse fu questo il motivo per cui disse brusca: «Su, su, lascia stare queste sciocchezze. Preferisco vederti fare ciò che ti ho chiesto. Quanto al cucinare, avevo giusto in mente di cominciare a darti lezioni uno di questi giorni, ma sei sempre talmente distratta, Anna, che aspettavo di vedere se ti calmavi un pochino e riuscivi a stare più tranquilla prima di iniziare. Quando si cucina bisogna stare attenti a ciò che si fa e non si può piantare tutto a metà e perdersi nei propri pensieri. Forza, vai a prendere il tuo patchwork e prepara un nuovo riquadro per la coperta prima dell'ora del tè». «Il patchwork non mi piace», ribatté Anna, tirando fuori il cestino da lavoro e sedendosi davanti a una pila di quadri bianchi e rossi con un sospiro afflitto. «Cucire a volte sarà anche bello, però preparare i quadrati per una coperta patchwork non lascia il minimo spazio all'immaginazione. Te ne stai lì a infilare un punto dietro l'altro e ti sembra di non arrivare mai da nessuna parte. Certo, preferisco essere Anna di Green Gables con il suo patchwork in mano piuttosto che un'Anna di qualunque altro posto che non ha nient'altro da fare che giocare. Però sarei più contenta se cucendo il tempo scorresse veloce come quando sono con Diana. Oh, passiamo dei momenti così gradevoli insieme, Marilla. All'immaginazione devo pensarci io, ma lo so fare bene. e Diana è perfetta sotto ogni altro punto di vista. Hai presente quel prato oltre il ruscello fra la nostra fattoria e quella dei Barry, vero? Appartiene al signor William Bell. Proprio lì, in un angolo, c'è una piccola radura delimitata dalle betulle, un posto molto romantico, sapessi. È lì che Diana e io abbiamo costruito la nostra casetta. L'abbiamo chiamata il Boschetto dell'Ozio. Non ti sembra un nome poetico? Mi ci è voluto un po' inventarlo, sai? Sono rimasta sveglia quasi tutta la notte prima di trovarlo. Poi, proprio mentre stavo per addormentarmi, mi è venuta l'ispirazione. Diana è rimasta incantata quando l'ha sentito. La nostra casetta è davvero stupenda, sai? Devi venire a vederla, Marilla, vero che ci vieni? Abbiamo preso delle grosse pietre ricoperte di muschio come sedili e alcune assi tra un ramo e l'altro come scaffali. Così ci abbiamo messo sopra tutti i piatti di porcellana. Certo sono rotti, ma immaginare che siano interi è la cosa più facile del mondo. C'è un pezzo di piatto con un rametto di edera rossa e gialla, dipinto, che è particolarmente bello. L'abbiamo messo in salotto, insieme al cristallo delle fate. Il cristallo delle fate è bello come un sogno. Diana l'ha trovato nel bosco dietro il pollaio di casa sua. È tutto pieno di arcobaleni, piccoli arcobaleni che devono ancora crescere. La mamma di Diana le ha detto che è una goccia di un lampadario che avevano tempo fa, però è più bello immaginare che le fate l'abbiano perso una sera durante un ballo ed è per questo che l'abbiamo chiamato il cristallo delle fate. Matthew ha promesso di costruirci un tavolino. Oh, a proposito, quel laghetto tondo dall'altra parte del prato del signor Barry l'abbiamo chiamato Stagno dei Salici. Ho trovato il nome nel libro che mi ha prestato Diana. Era davvero un libro molto emozionante, Marilla. L'eroina aveva cinque innamorati. A me ne basterebbe uno, ti pare? Lei era bellissima e la sua vita era fatta di tribolazioni. Sveniva di continuo, come niente proprio. A me piacerebbe un sacco saper svenire. E a te, Marilla? Lo trovo molto, molto romantico. Però io sono sana come un pesce, anche se sono così magra. Comunque mi sembra di essere ingrassata un pochino. Non sembra anche a te? Ogni mattina, quando mi alzo, mi guardo i gomiti per vedere se mi stanno venendo le fossette. Diana avrà un vestito nuovo con le maniche corte e vuole metterselo per il picnic. Oh, speriamo che mercoledì prossimo ci sia bel tempo. Non credo che potrei sopportare la delusione se qualcosa dovesse impedirmi di andare al picnic. Immagino che riuscirei a sopravvivere, ma di certo mi trascinerei per tutta la vita un profondo dispiacere. E non importerebbe se potessi partecipare a centinaia di altri picnic negli anni a venire. Perché non potrebbero mai ripagarmi per la perdita di questo? Sai, ci porteranno in barca sul lago delle acque scintillanti e, come ti dicevo, ci sarà il gelato. Io non l'ho mai assaggiato. Diana ha cercato di spiegarmi com'è, ma mi sa proprio che il gelato è una di quelle cose che vanno al di là di ogni immaginazione. Anna, hai parlato per 10 minuti senza mai riprendere fiato, osservò Marilla. Adesso, per pura curiosità, vediamo se riesci a tenere a freno la lingua per lo stesso tempo. La bambina tenne la bocca chiusa, come voleva Marilla, ma per il resto della settimana non fece altro che parlare del picnic, pensare al picnic e sognare il picnic. Il sabato cominciò a piovere e Anna si agitò talmente tanto per la preoccupazione che continuasse a piovere fino al mercoledì e oltre, che Marilla le fece cucire un quadrato in più da aggiungere alla coperta patchwork, nella speranza di farla rilassare un po'. Quella domenica, mentre tornavano a casa dalla chiesa, Anna confidò a Marilla che era stata colta da un brivido di emozione quando il pastore aveva annunciato dal pulpito che ci sarebbe stato il picnic. Ho sentito un brivido freddo corrermi su e giù per la schiena, Marilla. Probabilmente fino a quel momento non ci avevo creduto fino in fondo che il picnic ci sarebbe stato davvero. Non potevo impedirmi di temere di essermelo soltanto immaginato. Ma quando il pastore dice una cosa dal pulpito, bisogna crederci e basta. Tu prendi troppo a cuore le cose, Anna, le disse Marilla con un sospiro. E io ho paura che per questo la vita ti riserverà amare delusioni. Oh, Marilla. Aspettare che una certa cosa succeda è già metà del piacere che si proverà nel viverla, esclamò Anna. Magari poi non riesci a realizzare tutti i tuoi sogni, ma nulla può impedirti di godere dell'attesa. La signora Lind dice: beati coloro che non si aspettano niente perché non resteranno delusi. Ma secondo me è peggio non aspettarsi nulla piuttosto che restare delusi. Quel giorno, come tutte le domeniche, quando andava in chiesa, Marilla si era puntata al vestito la spilla di ametiste. Le sarebbe quasi parso di compiere un sacrilegio se l'avesse dimenticata. Un peccato grave come scordarsi la Bibbia o la monetina per l'offerta. Quella spilla con le ametiste era il suo tesoro più prezioso. Era stata regalata a sua madre da uno zio marinaio che aveva viaggiato per tutti i mari e lei, a sua volta, l'aveva lasciata in eredità a Marilla. Si trattava di un piccolo ovale di gusto antico e conteneva una piccola ciocca dei capelli della mamma circondato da un giro di bellissime ametiste. Marilla si intendeva troppo poco di pietre preziose per comprendere quanto fossero pure quelle ametiste, ma le considerava molto belle e anche se non lo vedeva, era sempre piacevolmente consapevole del riflesso viola all'altezza del collo quando portava la spilla sul vestito buono di rasatello marrone. Anna ne era stata conquistata all'istante, la prima volta che aveva visto la spilla. Oh, Marilla, è un gioiello elegantissimo. Non so come fai a concentrarti sul sermone o sulle preghiere quando lo indossi. Io non ci riuscirei di sicuro. Le ametiste sono deliziose e sono esattamente come un tempo io credevo che fossero i diamanti. Non ne avevo mai visti, ma avevo letto qualcosa dove se ne parlava e avevo cercato di immaginare come fossero. Insomma, mi ero convinta che i diamanti fossero bellissime pietre viola e lucenti. Poi un giorno ho visto un anello con diamante al dito di una signora e sono rimasta così delusa che stavo per mettermi a piangere. Certo era bello, ma era diversissimo dall'idea che mi ero fatta. Per favore, mi faresti tenere in mano la tua spilla per un momento, Marilla? Secondo te, le ametiste potrebbero essere le anime delle violette buone?